si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi partenza non da Gran Premio, perché siamo partiti con alcuni minuti di ritardo causa allungamenti di palinsesto. Causa Gran Premio, anche perché abbiamo guardato la partenza. La verità, no, è che non stavo guardando la prima partenza, e quindi non potevamo andare in onda naturalmente. Gran Premio di Cina di Formula 1. C'è una notizia che riguarda la Cina, incredibile, che è già qualche giorno che io volevo dirla, è questa qua. Allora, noi parliamo spesso di biciclette, ci appassioniamo a questo tema perché facciamo partire Frankie High Energy, pedala di solito magari a questo adesso punto. Lo facciamo partire ma anche no, non c'è problema, regia Peter Bescapè. Cosa succede? Che a Pechino in 10 vie principali e comprese le vie centralissime come la Via della Pace o anche la piazza Tiananmen, famosa piazza Tiananmen, hanno vietato l'uso della bicicletta per questioni di sicurezza, perché ci sono troppi incidenti stradali e troppe vittime ogni anno. Però i carri armati possono, in Tiananmen, i camion possono, le auto possono, tutti tranne che le bici. Cioè hanno rovesciato, invertito l'ordine che normalmente si adotta un po' in tutti i posti del mondo. Cioè, però hanno altri numeri di biciclette, sì, questa è la vera questione. E anche altri numeri di incidenti, adesso se lo trovo. Tra biciclette hanno incidenti loro? Oltre 31.000 incidenti di biciclette nel 2015, credo si... non so se il dato si riferisce solo a Pechino, dove è entrata in vigore questa norma, ma insomma è, ma quindi mi è stai curioso, dicendo è un che... si può fare alla rovescia, ma quindi mi stai dicendo che se noi andiamo avanti molto con questa trasmissione prende piede, tutti usano finalmente la bicicletta, fra 20 anni in realtà ci saranno troppe biciclette e tu Alessio sarai qua a dire: ragazzi, vi prego, usate l'automobile, non se ne può più di tutte queste bici, ci sono troppi incidenti in zona Duomo. Ma io tra 20 anni spero di essere da un'altra il parte, direttore. Al mare, direttore. Cominciamo, 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo, oltre che per raccontarci la vostra settimana, le vostre buone notizie, per commentare quello che sentite, anche per giocare con noi. Cerchiamo un personaggio della settimana, qualcuno che abbia una notizia che lo riguardi in questi ultimi 7 giorni. Il primo indizio che vi vado a dare è questo: è un personaggio molto amato. Quindi, perfetto, personaggio molto amato, pensate a questa ultima settimana, a questi 7 giorni di notizie. 800 24 00 24, vai. Non toccherà a noi dire se si tratta di una buona notizia oppure no, perché il primo tema con cui apriamo il riepilogo delle notizie della settimana è un tema super macro, generale: la riforma della Costituzione, la riforma del Senato. È un tema talmente generale, ognuno si sta facendo un po' le sue opinioni. E soprattutto poi ci sarà un referendum, ci sarà un referendum, ci occuperemo in quel momento, parleremo sicuramente, eccetera eccetera. Non lo hanno votato le opposizioni, non l'hanno votata la riforma del Senato le opposizioni, che sono addirittura uscite dall'aula. Cominciamo con Danilo Toninelli, il Movimento 5 Stelle. Non è un andare avanti, ma è il peggior conservatorismo e antipolitica che ci possa essere. Non vogliamo sporcarci le mani con questo obbrobrio e lo lasciamo votare solo a voi. Dopo 2 anni di lavoro, una maggioranza molto ampia ha detto sì alle riforme costituzionali in Parlamento e dopo 30 anni soprattutto di tentativi falliti. E questo invece è Crozza, che ha inventato un nuovo personaggio, Santa Boschi, sulla processione, lei seduta in cima al carro, insomma, che viene portata in processione. Santa Boschi, che secondo molti è la vera, diciamo, autrice di questa riforma. Sentiamo invece Renzi, che ridice: questo governo è nato con una promessa di riforme, se a ottobre mi votate contro questa riforma del Senato io me ne vado tranquillamente a casa. Il lavoro straordinario, certosino, di sblocco delle opere pubbliche incagliate, noi siamo l'unico paese al mondo che in questo momento sta facendo tre opere strepitose di collegamento con l'Europa. Non è questo il file di Renzi, cioè è stato un errore di sbaglio, come avrebbe detto Frassica. Era sempre Renzi, ma questo è il pezzo sul Gottardo, immagino. Sì, esatto, quando ha detto stiamo facendo tre tunnel, ma in realtà il tunnel del Gottardo lo sta facendo la Svizzera. Sì, però dopo si è giustamente corretto, ha detto ho capito, certo che è in Svizzera, ma collega la Svizzera con l'Italia, quell'altro collega con la Francia. Comunque, giustissimo. No, io dico solamente una cosa sulla questione del Senato, come dici tu, ne parleremo poi, ci sarà un referendum ad ottobre. Il fatto che si bolli sempre un po' questi risultati dicendo è un risultato storico, bisogna anche un po' stare attenti, nel senso che anche perdere 12-0 contro una squadra dell'oratorio per l'Italia sarebbe un risultato storico, ma non è detto che sia un buon risultato. Cioè, il fatto di essere storico non vuol dire che sia buono, non per forza. Questo è vero. A me piace sottolineare una cosa, invece, siccome si dice sempre che i politici non fanno le riforme per i cittadini, le fanno solo per se stessi, questa volta i senatori hanno votato per l'abolizione del Senato, no? Quando la riforma è passata al Senato, per una volta sicuramente non hanno votato una cosa che a loro fa piacere direttamente, perché il loro posto di lavoro scompare. Molti senatori pensano alla rielezione avendo votato per l'abolizione del Senato, questa volta si può dire. Ti ricordi quando Berlusconi disse non possiamo chiedere ai tacchini, ai capponi di anticipare il Natale? Questa volta invece è stata fatta. Poi bisogna capire dove si va in realtà e che cosa succede di Senato, perché in realtà una sorta di Senato resterà. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, per noi è molto più facile dire che invece è una buona notizia il fatto che si è trovato il denaro per tenere aperte le riserve naturali, 21 riserve naturali della Sicilia. A metà settimana la notizia è stata: non ci sono i soldi, chiudono le riserve naturali, posti straordinari, bellissimi, come l'Isola delle Femmine, la Grotta dei Puntali, l'Isola di Lampedusa, paradisi naturali veri e propri per i quali ancora una volta la Sicilia sembrava che non avesse i soldi per tenerle aperte. Poi accordo in extremis, all'ultimo proprio in zona Cesarini con il presidente di Lega Ambiente Sicilia. Buona domenica Gianfranco Zanna. Buona domenica a tutti voi. Buona domenica. Allora Zanna, io so che lei insomma sarà lì che dice sì, va bene, è solo uno scampato pericolo, no? Perché questa cosa non è la prima volta che succede. Cosa stavamo rischiando a metà settimana? No, per la verità cosa ancora continuiamo a rischiare? Perché ecco, il problema non si è risolto. Non si è risolto anche dopo la firma di questo, chiamiamolo accordo, di questo nuovo credito che come associazione ambientalista abbiamo voluto dare all'amministrazione regionale, all'assessorato al territorio, al governo regionale, perché è solo una nuova apertura di credito, cioè soldi che comunque non basterebbero, perché da alcuni anni la regione siciliana in maniera del tutto inconsapevole decide ogni anno quando si stabiliscono le quote del bilancio della regione di appostare nel capitolo che serve a finanziare la gestione delle associazioni ambientaliste dell'Università di Catania di 27 riserve la cifra che se va bene è meno della metà di quella che già sappiamo che sarebbe necessaria. Diciamola anche questa cifra, perché calcolata in percentuale sul bilancio della regione, poi la percentuale la dico io, fa capire di cosa stiamo parlando, una cosa irrisoria. La cifra totale è 3.900.000 euro su un bilancio di 24 miliardi di euro. Io la percentuale l'ho calcolata, sapete quanto fa? È lo 0,001% di tutto il bilancio, cioè un millesimo di punto. No, quindi parliamo di una cosa per delle riserve naturali che Zanna ce lo dica lei, perché sono importanti? No? Potrebbe dire non ci sono i soldi per i poveracci o cose, invece che valore hanno queste riserve per la scienza, per il turismo? Io non solo possiamo dare dei numeri sulla fruizione, ma la biodiversità conservata in questi territori è straordinaria. Ma vorrei aggiungere un'altra cosa: tramite queste riserve e tramite tutto il sistema delle aree naturalistiche siciliane, composto da 5 parchi e da 71 riserve, la regione siciliana riceve soldi, riesce a captare fondi dall'Unione Europea per questo patrimonio, per il valore di questo patrimonio. E dà da lavorare anche, credo, a tutte le persone che sono impegnate in questa tutela, no? A tantissime persone impegnate direttamente, le nostre, diciamo, quelle impegnate in 27 riserve sono 90, ma stiamo parlando di persone che da 20 anni vivono con stipendi che sicuramente non si sono arricchite. Personale che possiamo dire che fa parte di quel grande numero di persone che vivono precariamente nella nostra regione con stipendi che si ruotano intorno a 1.000 euro, più tutte quelle che lavorano nelle riserve gestite dal pubblico, dalle province regionali, dall'ex provincia regionale ormai, oppure da quella che era l'azienda Foreste e Demaniali. Ma poi nessuno può mai calcolare qual è l'indotto di tutto questo, cioè quella fruizione ampissima, sempre più crescente, di persone che vengono in Sicilia per conoscere il patrimonio naturalistico, oltre alle bellezze architettoniche e monumentali. Il pericolo, per chiudere quel punto, non è finito, perché la Regione si è impegnato che entro il 31 maggio metterà i soldi che mancano alla metà di quelli di cui c'è bisogno. Poi dovremo fare un'altra battaglia, come facciamo da 4-5 anni, per raggiungere i 3.900.000. Perché dunque, diciamo che ci sono oltre 70 riserve naturali in Sicilia, di cui queste di cui stiamo parlando sono le 27 che sono date, mi corregga se sbaglio, in gestione in qualche modo alle associazioni ambientaliste, all'università per fare dei progetti eccetera eccetera. Poi ci sono anche quelle che invece gestisce direttamente la Regione, e lì forse, se possibile, mi pare di capire dalla vostra denuncia, le cose vanno anche peggio? Eh sì, diciamo che la maggioranza, purtroppo lo dico, ovviamente lo dico con rammarico, non con piacimento, purtroppo la maggioranza, buona parte del patrimonio naturalistico gestito dal pubblico, dalla Regione, più o meno direttamente o tramite la ex azienda Foreste e Demaniali o tramite le province regionali, non brillano per efficienza. Perché questo patrimonio, con le risorse che comunque ha a disposizione, o viene vissuto, gestito, animato dalla passione di volontari che hanno scelto di fare questo mestiere, quindi i risultati si vedono, oppure non viene gestito. Vorrei fare solo un esempio, credo che sia a tutti abbastanza nota a Milano, al vostro pubblico, l'Isola dei Conigli, che Trap Advisor 3 anni fa l'ha giudicata la spiaggia più bella del mondo, e ora nella classifica è terzo o quarto, diciamo, nella classifica di quest'anno. Ora noi riteniamo l'Isola dei Conigli, sicuramente ci saranno spiagge molto più belle nel mondo, sì, rispetto a quella che è straordinaria di San Milano. Ma lì cosa viene premiato? Viene premiato un modello di gestione. Si è riusciti a far convivere una fruizione sempre più crescente negli ultimi 20 anni con le tartarughe che vanno a depositare e con la tutela del luogo. Vorrei ricordare che quando abbiamo iniziato a gestirla noi come Lega Ambiente, quella riserva già esisteva ed era gestita dall'azienda Foreste Demaniali di Agrigento. Fu tolta a quell'azienda, quindi al pubblico, per darla a un soggetto privato. Io sono andato un attimo a guardare su Google Immagini e devo dire che basta un attimo il colpo d'occhio perché io non, personalmente non... Vent'anni fa quella che lei non vede ci la sono spiaggia, mai stato, ma è qualcosa di meraviglioso. Sì. Quella spiaggia era coperta dei cosiddetti chiostrari abusivi che vendevano di tutto e di più, le sedie a sdraio, le bibite, si scendeva in macchina fino alla spiaggia, si parcheggiava sulla spiaggia. Adesso c'è una fruizione mirata, equilibrata, che dove c'è una parte in cui uno si può mettere con l'ombrellone la sedia a sdraio, ecco, un'altra parte c'è un equilibrio. E noi vorremmo che fosse, non dico tutta così la Sicilia, perché non è immaginabile, ma almeno queste riserve naturali, che la Regione ci investa almeno questo 0,001% del bilancio, che diventi 0,002, che per voi sarebbe già un raddoppio, quindi raddoppio di persone che ci lavorano, raddoppio di spiagge pulite, raddoppio di tartarughe, raddoppio di turisti, raddoppio di tutto, spendendo comunque una frazione infinitesima di quei 24 miliardi di euro che spende la Regione per tutto il suo bilancio. Ci sono capitoli naturalmente che saranno anche più importanti di questi. Però se ci fermiamo solo ai capitoli che riguardano il patrimonio naturalistico, io vorrei ricordare che i 5 parchi assorbono 12 milioni di euro solo per pagare gli stipendi. Purtroppo là ci sarebbe da discutere. Ci sarebbe sicuramente da discutere anche su questo. Però noi dobbiamo chiudere. Zanna, io la ringrazio per essere stato con noi. Buona domenica. Zanna dalla Sicilia, Lega Ambiente. Questa grazie. Situazione per quanto riguarda le riserve naturali. Ascoltatori, ci risentiamo dopo il GR con il personaggio della settimana che andiamo cercando. È molto amato. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. Ben ritrovati con Si può fare, il riepilogo delle notizie principali della settimana, laddove è possibile raccontarvi qualche buona notizia. 800 24 00 24. Andiamo cercando anche un personaggio della settimana. Anche oggi in palio i biglietti e il catalogo della mostra di Miro al prestigiosissimo MUDEC di Milano. Per chi indovina il personaggio, primo indizio, abbiamo detto, è un personaggio molto amato. Poi ci toccherà darne un altro. Poi di tra poco inizio, sì, assolutamente, sì, ma diventeremo un po' più buoni. Per adesso, ora appena sentiamo gli ascoltatori capiamo se siamo hanno su questo, sì. Allora facciamo così, visto che gli ascoltatori non siamo riusciti a farli nel primo blocco, li facciamo subito e con le notizie riprendiamo tra un attimo. Clara da Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie anche a voi. Buongiorno. Vai Clara, su cosa volevi intervenire? Sul personaggio? Sì, sul personaggio, secondo me è Leonardo da Vinci, però il fatto di essere la prima a rispondere mi dice male, forse non ho indovinato. E perché? E perché? Perché finisce subito il è raro che si indovini così presto, questo è vero, però perché no, potrebbe anche essere. Perché Leonardo da Vinci intanto? Beh, perché ne hanno fatto molta pubblicità il fatto di aver ritrovato i discendenti, e poi perché tra questi discendenti c'è un altro personaggio molto amato che è Zeffirelli. Zeffirelli, sì, è vero. E questo mi ha fatto pensare a lui. Personaggio sicuramente molto amato da Leonardo da Vinci, però non era in effetti lui il nostro personaggio, ma siamo contenti di aver ricordato la notizia dei discendenti viventi e non viventi. Ritrovati. Cristina da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Anche a lei. Buongiorno. Io ho pensato a Papa Francesco perché è molto amato non solo dai credenti, ma anche i non credenti. È vero che fa tanti viaggi, però è un evento, insomma, nella storia della Chiesa che un Papa incontri i migranti, che è un po' anche un tema molto caldo di questi ultimi anni. Assolutamente, assolutamente. La notizia c'è, appena stato a Lesbo. E poi il Papa è in effetti un personaggio, esatto, della settimana, infatti. Quasi tutte le settimane, quasi tutti gli indizi che diciamo abbracciano anche il Papa in qualche modo. Forse anche perché andiamo in onda di domenica. Forse per quello. Però come forse avrà intuito Cristina, in effetti non era Bergoglio il nostro personaggio di questa settimana, non era proprio lui. Grazie. Grazie per averci chiamato, comunque per aver ricordato anche il viaggio di Papa Francesco a Lesbo, che noi abbiamo seguito con l'inviata Raffaella Calà. 800 24 00 24. Aggiungiamo un indizio, cerchiamo di diventare un po' più buoni. Ma sì, è giusto. Allora, la notizia ha a che fare con un regalo. Un regalo, ed è un personaggio molto amato. 800 24 00 24. Nulla di più bello al mondo che il giorno del tuo funerale, mentre esce la bara, i cittadini per bene di questo paese, che sono tanti, cantino onestà, onestà. Questa è la più grande vittoria di un uomo straordinario, che ha permesso a tutti quanti noi, lui insieme a Beppe, di combattere per il benessere generale, per l'interesse dei cittadini. Io sono fiero e orgoglioso di far parte del movimento e di aver conosciuto Gianroberto. E questo era Ale Di Battista, il giorno dei funerali di Gianroberto Casaleggio, che è scomparso questa settimana dopo aver combattuto contro una malattia. Naturalmente poi si è aperto tutto il discorso sul futuro del Movimento 5 Stelle. Sentiamo Dario Fo, che risponde alla domanda sul fatto se sia giusto che il figlio di Casaleggio, Davide, debba in qualche modo, lo abbiamo chiesto anche ieri a Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, ereditare, perché di fatto la piattaforma online è una proprietà privata della società di Casaleggio, se vada al figlio, oppure se, essendo lo strumento principale di mobilitazione politica di un partito, non dovrebbe avere un'altra sorte. E Fo risponde facendo un paragone anche con la sua storia personale e con suo figlio. E c'era il ragazzo più grande, che ha 40 anni, e che è quello che da tempo, lo sapevo, aiuta il padre nella conduzione dell'impianto. Io per esempio a un certo punto ho delegato mio figlio a preoccuparsi degli spettacoli che erano in giro, è quasi normale, fisicamente normale. Bah, non lo so, mi dispiace per Dario Fo, però questo paragone non ci sta molto, perché un conto è delegare il figlio per i propri spettacoli, è un fatto totalmente personale. Ma poi era più organizzativo, nel senso che sta parlando di Jacopo Fo. Suppongo. E tra l'altro Jacopo faceva anche spettacoli e fa tuttora spettacoli suoi, quindi mi sembra che il paragone sia diverso. Invece volevo dire una cosa su Di Battista che non ho esattamente capito, nel senso che lui gioisce dicendo che bello che abbiamo tutti urlato onestà, onestà al funerale. Non mi è molto chiaro, se devo essere onesto, perché mi sembra che un paese che deve urlare onestà e onestà vuol dire che è un paese dove l'onestà non c'è, quindi non mi sembra una gran vittoria per Casaleggio. Ci sono loro, però c'è il Movimento 5 Stelle che porta onestà, questo è l'implicito ragionamento di un dibattito. Non mi sembra un urlo stupendo da urlare a un funerale, se devo essere onesto, però forse ho capito male io. Allora, noi oggi abbiamo il nostro referendum, si vota dalle 7 di mattina fino alle 23 per il referendum sulle trivelle, naturalmente. La Gran Bretagna avrà il suo importante referendum il 23 di giugno, Brexit, per rimanere o per uscire dalla Gran Bretagna. Ne parliamo tra pochissimo con il grandissimo Antonio Caprarica. Prima facciamo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa degli Oasis, vi ricordo che tutte le canzoni di Si può fare le ritrovate sulla pagina di Si può fare sul sito di Radio 24. Non andare via, è quasi un grido di dolore quello che stanno lanciando tutti coloro che non vogliono che la Gran Bretagna esca dall'Europa. State con noi, è diventata anche una campagna virale, abbraccia un britannico, tanta gente si è fatta immortalare abbracciando un inglese o anche semplicemente libri di scrittori inglesi del passato. Su Twitter per esempio c'è un fiorire di immagini di questo tipo. Noi abbracciamo virtualmente Antonio Caprarica, buongiorno. Buongiorno. E buona domenica. Buongiorno. L'abbracciamo tanto perché ci fa piacere, ma poi perché come rappresentante per noi virtuale quasi dell'Inghilterra, insomma, perché lo associamo per forza a tutto quello che è l'Inghilterra. Caprarica, lei invece ha abbracciato qualche inglese, vero? Ha aderito a questa campagna? Pensa di farlo? Ma penso di farlo, anzi diciamo che lo faccio praticamente ogni giorno appena vedo un amico inglese, ma ho la sensazione, come sapete però gli inglesi sono piuttosto refrattari ai cortafici. È vero. Quindi, temo che non possa essere... Non farà breccia questa campagna. Questa tra l'altro... Io conto sempre molto sul buon senso e il pragmatismo. Negli inglesi, sì. Questa campagna l'ha lanciata, credo, una cittadina tedesca, Catherine Locke, se abbiamo visto bene. Poi, come succede spesso con le cose virali, che montano, non si sa bene più nemmeno a chi risalgono. Cari ascoltatori, se volete, potete farvi fotografare, che ne so, con un libro di Shakespeare o chi è il vostro idolo inglese, ce ne sono tanti. È difficile pensare, Caprarica, che l'Inghilterra non faccia parte dell'Europa. Su cosa veramente voteranno gli inglesi il 23 giugno? Cos'è lo spettro? Intanto, però, ecco, su questo punto sia l'Inghilterra faccia parte dell'Europa, insomma l'Inghilterra resta inevitabilmente, che piaccia o non piaccia anche a Nigel Farage, l'Inghilterra è un pezzo importante della nostra identità europea. La cosa un po' diversa è l'Inghilterra parte delle istituzioni europee, nelle quali bisogna dirci pure un po' la verità, insomma c'è sempre stata con un piede solo e c'è sempre stata con enormi riserve, insomma quella che a noi italiani, per la verità adesso non più nemmeno tra tutti gli italiani, insomma, ma una volta noi eravamo un'azione straordinariamente europeista con il sogno federalista sempre squadernato davanti agli occhi. Beh, gli inglesi il sogno federalista l'hanno sempre considerato un incubo piuttosto, quindi c'è da tenere presente che nella prospettiva generalissima degli Stati Uniti d'Europa, beh lì insomma gli inglesi non ci sarebbero mai stati e non ci saranno mai. Quindi lo spettro, cioè quando l'inglese medio chiude gli occhi, pensa all'Europa e pensa male, pensa alle istituzioni, alla burocrazia, alle cose farraginose, all'inutilità di questa burocrazia europea? E i famosi red tapes, sì, che gli inglesi detestano, ma ci sono anche, ad esempio faccio un esempio molto banale, insomma, ma dà forse un po' l'idea, da noi sul continente la polemica sugli alti compensi dei manager ha prodotto immediatamente a Bruxelles una risposta, il tetto ai compensi dei manager, no? E questo sembra venire incontro a un'ondata piuttosto demagogica che investe tutto il continente. In Inghilterra l'idea di applicare ai manager bancari o finanziari i tetti che Bruxelles vorrebbe stabilire è un'idea che fa venire l'orticaria. Perché? Ma perché l'idea anglosassone, nella cultura, nella società anglosassone, in qualche misura anche la ricchezza è un segno della benedizione di Dio, cioè non è il denaro, lo sterco del diavolo come per noi eredi di una lunga tradizione cattolica, in realtà è il segno che insomma uno il successo se li guadagnate. Ecco, faccio questo esempio. C'è meno senso di colpa. Precisamente, perfino il senso di colpa. Non è così, lì non è così. Allora, questo è solo uno dei mille esempi che si possono fare sulla differente mentalità di inglesi ed europei continentali. Dopodiché, che cosa voteranno il 23 giugno? Beh, il 23 giugno in realtà, se davvero decidessero per la Brexit, sarebbe un po' un suicidio collettivo. Poi, ovviamente, l'Inghilterra è un grande paese, la Gran Bretagna è un grande paese, ma insomma farà anche magari senza di noi, ma per una collettività che esporta sul continente il 52% di ciò che produce, l'idea di uscire dalle istituzioni comunitarie sembra appunto davvero un suicidio collettivo. Senta, ma lei ha scritto anche un libro, L'intramontabile Elisabetta, che uscirà proprio in occasione del compleanno della regina. Scusa, è già uscito. Il sesto in classifica della saggistica. È giusto. È giusto. Ho sbagliato io, perché è uscito il 21 aprile. No. È uscito il 5 aprile. Il 21 aprile viene presentato a Milano. Sì, sono completamente si può dire rincoglionito. Ma sì, non è un problema. La regina compie 90 esatto. anni, Alessio. Ma la domanda era questa: la regina va a votare, per esempio? No, la regina non va a votare. È tenuta a non esprimere, anzi, come sapete, ecco, proprio sulla Brexit c'è stata l'ombra di una velata polemica nei confronti del nipote ed erede William. I membri di Casa Reale non devono esprimere alcun segno di preferenza politica, in nessun modo. Ma William qualche tempo fa ha detto, beh, insomma, il compito della politica è di costruire, ha ripetuto una frase che poi corre molto di questi tempi, di costruire ponti e non muri, di unire e non dividere. Questa roba qui, nella sua genericità, è parsa agli euroscettici un pronunciamento a favore della permanenza. Un velato messaggio. Beh, esatto. Sì, insomma, neanche tanto velato direi. Ma torniamo tra un attimo alla regina. Cameron invece, con il coinvolgimento, per quanto diciamo non direttissimo, insomma, ma abbastanza da doversi difendere, ecco, dal coinvolgimento dello scandalo dei Panama Papers, con questi fondi che erano del padre, che poi lui ha venduto prima di diventare premier, eccetera, eccetera, potrebbe indebolirsi la sua figura. Di chi invece vota per il Remain, per il rimanere in Europa, potrebbe influire questo sul referendum? Ma sì, non c'è dubbio, anzi questo è probabilmente il colpo peggiore che abbia subito la campagna contro l'uscita, perché in realtà dal punto di vista sia legale sia fiscale Cameron ha dimostrato di non aver fatto niente di sbagliato, non ci sono, come dire, ombre di nessuna specie, però la circostanza stessa di aver avuto un pacchetto di quelle azioni su una entità finanziaria offshore, sulle quali peraltro egli ha dimostrato che ha pagato appunto tutto il dovuto eccetera eccetera, beh, questo è bastato a proiettare su di lui un'ombra quantomeno di incoerenza, anche perché è lo stesso primo ministro che ha detto che bisogna combattere l'elusione, i fiscal loops, i buchi fiscali che permettono insomma di nascondere un po' di denari alle grandi imprese. Quindi essendo una campagna che si giocherà all'ultimo voto, potrebbe esserci un piccolo effetto, uno scarto su questo, perché i sondaggi adesso cosa dicono? Che siamo ancora una sorta di testa a testa? Non sono mai d'accordo i sondaggi, questo vale anche in Inghilterra, insomma, sono opinioni diverse, però in questo momento sembrerebbe esserci una prevalenza dell'uscita, sia pure con un grandissimo numero di indecisi. Un 20% circa. Un affidamento sul buon senso e pragmatismo degli indecisi. Sì, e soprattutto quando andranno a fare due conti in termini economici. Però il guaio è che un settore che ad esempio era molto a favore della permanenza nelle istituzioni comunitarie, quello della finanza, negli ultimi tempi ha preso posizioni diverse e invece si è diviso quasi in due, insomma, quindi una grande forza economica che era a favore della permanenza oggi è tutt'altro che compatta rispetto al passato, rispetto a questo tema. Ma sarebbe subito effettivo se passasse il referendum sulla Brexit? Cioè dal giorno dopo non no, sono... Naturalmente c'è tutto un periodo, anche se sarebbe possibile, insomma ci sono tutta una serie di legami giuridici, infatti... di legami organizzativi, no, naturalmente c'è un tempo vero e proprio di latenza per favorire il passaggio o il ritorno della Gran Bretagna all'autogoverno su tutta una serie di questioni che sono state al momento demandate ai famosi burocrati di Bruxelles, quindi ovviamente ci vorrebbe tempo, insomma il segnale qui veramente per gli europeisti sembra una specie di alternativa del diavolo, insomma da un lato la vittoria di Cameron, cioè del sì, del rimanere nell'Unione, sarebbe un segnale per gli altri euroscettici all'interno dell'Unione per dire vabbè alziamo il prezzo, tanto qualcosa sempre riusciamo poi a strapparla come ha fatto Cameron. Ecco, quindi diciamo da un certo punto di vista forse l'uscita sarebbe più conveniente per chi crede davvero in una Unione Europea più coesa, più integrata. Dall'altro però è chiaro che l'uscita degli inglesi priva l'Unione, le istituzioni europee, voi lo dicevate all'inizio, insomma, di quel tratto identitario inglese così essenziale che è la spinta verso il rispetto dell'individuo e verso il liberalismo, non dico il liberismo, il liberalismo, cioè un'impronta liberale nell'approccio a tutte le questioni sia sociali che economiche dell'Unione. Senta, allora il 21 aprile la regina compirà 90 anni, chi è veramente questa donna di ferro, questa regina Elisabetta di cui lei ha scritto la biografia? Diciamo raccontando un po' al pubblico cose che sa e cose che ignora, comprese magari alcune debolezze sentimentali, ma il problema è che abbiamo davanti, anzi diciamo l'ho scritta perché davanti a noi non c'è un problema ma la soluzione al problema, cioè un capo dello Stato pressoché perfetto, è una donna indomita che come le ha riconosciuto 10 anni fa, quando colpì gli 80 anni il Times, non ha mai concesso alla maschera di scivolarle dal volto, nel senso che ha mantenuto sempre una imparzialità assolutamente indiscutibile e indiscussa, e che è riuscita per 64 anni passati ormai a mantenere fede al giuramento che fece quando era una giovanissima donna, 21 anni, quando in un discorso radiofonico celeberrimo promise al suo paese di servirlo per il resto della sua vita. Ecco, quindi è uno spot per la monarchia straordinario, cioè molto meglio lei di tanti altri capi di Stato dell'Europa. Sì. Beh, bisogna dirlo, sì, voglio dire, io rimango repubblicano, intendiamoci. Però, quando la monarchia costituzionale si ritrova come capo di Stato una donna come questa, coraggiosa, imperturbata, insomma, le hanno sparato e lei non ha mosso un muscolo, ha tenuto perfino buono il cavallo mentre si continuava a sfilare. Beh, insomma, quando hai un capo di Stato come questo è un bel vantaggio per il paese, tra l'altro per l'Inghilterra, come sapete, è un bel vantaggio anche economico, no? Perché si calcola che la monarchia contribuisca mediamente con un 700-800 milioni di sterline l'anno al flusso turistico del paese. Beh, certo, una grande attrazione. Devo dire che in quanto a imperturbabilità, adesso anche in Italia non siamo messi male, nel senso che Mattarella è abbastanza imperturbabile. Non so se sugli altri aspetti diciamo di forza e di comunicare una guida salda al paese, ecco, forse siamo un po' più debolucci, ma questo è un altro discorso. Sì, poi la funzione naturalmente è tutt'altra, insomma, davvero per gli inglesi la monarchia è un fattore, come dire, identitario, quello che è da questo punto di vista Elisabetta è un elemento all'apparenza indistruttibile del panorama ideale, culturale, insomma è un pezzo del panorama come il Big Ben, no? come il Palazzo del Parlamento. Infatti il problema vero, tornando al famoso pragmatismo degli inglesi, cioè un nostro collega londinese che si è messo a fare due conti su quanto costerebbe la scomparsa di Elisabetta alla Gran Bretagna, sempre perché insomma gli inglesi di conto, come sapete, sanno far bene, e se ne è venuto fuori con la impressionante cifra di almeno 7-8 miliardi di sterline tra lavoro perduto, giornate di lavoro perduto, rifacimento di tutti i francobolli, di tutte le monete, via raccontando. Insomma, ha concluso che la morte della regina non è economicamente affrontabile. Quindi in realtà lei è una straordinaria donna che ha deciso di non morire perché costerebbe troppo. Guardate, la buonanima di Edoardo VII, prima di diventare re, anche lui diventò re molto tardi, a 60 anni, no? Perché Vittoria non se ne andava mai, una volta celebrando il giubileo del diamante della madre disse: io non ho nulla contro l'idea di un padre eterno, certo quella di una madre eterna mi metterebbe in apprensione. Eccezionale. Tanto anche Carlo si ponga il problema. Mi sembra straordinario. Grazie Caprarica. Grazie mille. Grazie, buona domenica. Grazie mille. Ha dato anche un grande consiglio, sì, Caprarica, a questa campagna di cui abbiamo parlato, Hague Brit, perché giustamente diceva gli inglesi sono un po' contrari al contatto fisico, quindi forse bisogna cambiarla in strizza l'occhio a un inglese, non abbraccia un inglese, perché se lo vuoi abbracciare scappa. Anche se questa campagna sta dando dei risultati, almeno a guardare ai numeri su Twitter, ma come si sa i social network non sempre sono la vera faccia della realtà. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo. Facciamo la pausa o prima possiamo fare un paio di telefonate, regia? Dopo la pausa, ci sono già in attesa Remo da Milano, Giuliana da Treviso, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori. Abbiamo Remo che ci chiama da Milano. Buongiorno Remo, benvenuto. Voi, salve. Prego. Mi sentite, sì? No? Sì, benissimo. Forte e chiaro. Ok, scusami. Dunque, no, avevo appena acceso la radio, per cui ho ascoltato alcuni indizi per quanto riguarda il vostro personaggio. E devo dire, è un po'... è scherzosa la mia telefonata, perché ho sentito parlare di un personaggio molto amato per un qualcosa che è successo in settimana, e c'è di mezzo anche un regalo, no? Sono giusti questi indizi? Tutto giusto. Perfetto. Sei un detective? Scusa? Sei un detective? No, assolutamente no, magari. No, mi è venuto in mente immediatamente, però sentito questi indizi, un nome unico, che è quello di Mauro Icardi, il giocatore dell'Inter, perché ieri, grazie ad un regalo, è diventato il più amato dai tifosi juventini, almeno oggi. Per questo ho pensato a lui, ed è uno anche che viaggia molto, per cui dico Mauro Icardi. Direi che il racconto è perfetto della storia, hai unito tutti i puntini, come si suol dire, hai unito tutti gli indizi perfettamente, però purtroppo la risposta non era questa. Però ti ringraziamo molto di aver chiamato e anche molto di questa risposta. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, ciao, buona Remo, domenica. Grazie. Andiamo con Giuliana che chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Mi prego. Sente? Sì, sì, forte e chiaro. Vada Giuliana. Sì. Per me è Giorgio Napolitano. E come mai? Perché quando era presidente è stato amato, e per me è il regalo che vuol fare a Renzi, dicendo di non andare, di astenersi al voto per referendum. Ah, quindi la notizia della settimana è che il regalo a Renzi, dicendo di non andare a votare. È tutto corretto, tutte le risposte corrette, ma non è il personaggio che avevamo scelto. Però ringraziamo per aver almeno ricordato la notizia di Napolitano, che in qualche modo appoggia Renzi. paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah. All the trees, put them in a tree museum, and they charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Non so se hai capito bene con le nostre playlist oggi dove, fin dove siamo arrivati. Joni Mitchell, Joni Mitchell, la storica grandissima cantautrice americana, Big Yellow Taxi. Perché parliamo di taxi? E comunque mandiamo un saluto e un grazie al nostro Andrea Piana, autore del programma, che ha sempre anche delle grandi trovate musicali. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Siamo nel cuore della Sicilia, parliamo di un gruppo di giovani sviluppatori che ha inventato insieme ai tecnici della Mercedes, tra l'altro, una app che si chiama Movement. È un gioco di parole. È con noi Riccardo D'Angelo, numero uno della Edison Web. Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, raccontaci tutto. A noi ha sorpreso che nel cuore della Sicilia, che immaginiamo sempre terra di mare, di sole, di limoni, di cose belle, ma non di nuove tecnologie. E non di taxi, volevi dire. Taxi, no, di sviluppatori, di nuove app. E invece proprio da qui parte un'idea per risolvere la questione del traffico. Tanto per restare a una citazione sicula, Riccardo. Esatto, d'altronde noi siamo in un piccolo paesino nel centro della Sicilia, Mirabella in Baccari, 5.000 abitanti, dove, a differenza di quanto affermava Johnny Stecchino, abbiamo tanti problemi, ma sicuramente non quello del traffico. Esatto. E quindi in qualche maniera questo non ci ha impedito però di guardare al tema della mobilità in generale e interpretarlo a modo nostro. È un modo per interpretarlo a modo nostro, anche quello di guardare le esperienze del mondo e soprattutto le esperienze del sud del mondo. Infatti l'ispirazione iniziale è il taxi particular cubano, che è una via di mezzo tra un taxi e un autobus, quindi un sistema di trasporto collettivo. Un taxi condiviso. Un taxi collettivo, un taxi condiviso, per dirla insomma all'italiana. Proprio così, dove noi però abbiamo aggiunto la componente tecnologica che consente di coordinare questi mezzi in maniera intelligente, comprendere dall'uso e quindi dalla domanda e dall'offerta e dalla richiesta di mobilità qual è la migliore dislocazione e qual è la migliore pianificazione, così da ottimizzare la presenza a bordo, ovvero incrementare il numero di passeggeri pro corsa e così ridurre i costi sia per gli utenti che per la gestione del servizio. Ma come funziona semplicemente? Sì. Scusa, io sono un appassionato di taxi perché non ho la patente, quindi come funziona? Io ho bisogno di un taxi e dico dove sono, immagino. Io ho bisogno di un posto, di un sedile che mi porti da un punto A a un punto B, diciamo. Giusto. Così. Già qui ci sta la differenza, perché io dico ho bisogno di un taxi, tu giustamente dici ho bisogno di un sedile, perché a seconda di quanti posti uno occupa cambia, giustamente, perché di solito uno prende il taxi ed è da solo magari e occupa tutti i posti, invece io dico giusto, ho bisogno di un posto. Ho bisogno di un sedile in un posto, quindi ho la mia app che individuo dove mi trovo e mi indica la fermata più vicina e ovviamente in funzione della mia destinazione, indicandomi il tempo di attesa e il mezzo che passerà da lì a poco, dandomi tutte le informazioni necessarie per arrivare a piedi alla fermata e prevedendo quale sarà il tragitto e il tempo di percorrenza. Ma in che senso la fermata? Perché quindi il taxi non mi viene più a prendere a casa? No, no, infatti quella differenza è la componente che assomiglia più alla linea di autobus. Ai fini dell'ottimizzazione e anche della pianificazione, quindi in termini di algoritmi matematici e quant'altro, muoverci in una matrice, un reticolo determinato consente di avere una maggiore efficacia, una maggiore efficienza del servizio. Ecco, ovviamente, detto con parole povere, invece di passare per la strada di casa tua, passa magari per la strada a fianco, perché il percorso è più semplice in quel caso. Tu ti fai 50 metri a piedi, però risparmi molto. Immaginiamo una sorta di punto di raccolta, no? Un pick up point che consente quindi di ottimizzare il tragitto per quanto riguarda il mezzo, quindi i costi, a fronte magari di una passeggiatina di qualche centinaio di metri, che non fa mai male comunque. No, sono d'accordissimo che non fa mai male, diciamo, però questa è una differenza dal taxi. Ci sono anche persone che usano il taxi perché magari hanno difficoltà a muoversi. Veniamo e quindi però ci tengono alle note liete. Quanto si può risparmiare rispetto a una corsa? Mettiamo, io faccio una corsa a Milano, posso spendere quei 15 euro in questo modo, con dividendo il taxi, mediamente avete calcolato quanto si va a risparmiare? Certo, abbiamo fatto dei calcoli ben precisi e proprio qui la chiave. Noi ci poniamo in un mercato potenziale che non è dei taxi e non è neanche dell'autobus, ma di tutti coloro che per i loro spostamenti quotidiani sono disposti magari a spendere qualcosina di più rispetto a un mezzo di trasporto collettivo tipico come quello dei tram e degli autobus. Certo. Ma non certamente il costo di una corsa, ed è il motivo per cui molti di noi girano in auto, un guidatore. Il costo quindi è in base al consumo effettivo. Noi abbiamo previsto un costo di 40 centesimi al chilometro. Quindi bisognerebbe fare il calcolo. Comunque ci stai dicendo 3, che 4, 5, 6 euro a fronte di 20 euro. Quindi diciamo siamo nella fascia di mezzo tra il biglietto dell'autobus, che è 1,50 euro per esempio a Milano, il biglietto singolo, e i 15 euro della corsa del taxi. Si viaggia più comodi che in autobus, si fa qualche fatica in più rispetto al taxi e si paga la metà più o meno. Esatto, e poi fondamentalmente si apre a nostro avviso un mercato nuovo, che è appunto tutti coloro che utilizzano l'auto e potrebbero benissimo non utilizzarla in questo ambito. Scusami, ma la cosa che mi interessava è per chi usa l'automobile o è per i tassisti, cioè per coloro che già fanno adesso i tassisti, oppure è per me che uno decide di usare la propria auto e di condividerla? No, è un sistema di trasporto con conducente, quindi tassisti. Il mercato di riferimento è di coloro che utilizzano l'auto privata, ovviamente, che potrebbero lasciarla a casa, certo, per venderla. Però viene esercitato questo servizio in collaborazione con il sistema di trasporto pubblico e anche sicuramente anche con l'apporto dei quelli che noi chiamiamo gli operatori regolari del trasporto, ovvero i tassisti o gli NCC, che sono chiamati con un modello di questo genere a dare il loro contributo e anche a trarne vantaggio. Così per una volta non sciopereranno contro un nuovo sistema di mobilità. No, la domanda infatti è d'obbligo: i tassisti come l'hanno presa tutto questo? Benissimo, per esempio a Ragusa, dove partiremo domani, la metà degli autisti sono tassisti o NCC. Noi abbiamo fatto nel nostro viaggio da Stoccarda alla Sicilia, che abbiamo voluto anche intraprendere. L'avete fatto in taxi il viaggio? Ovviamente. L'abbiamo fatto con i mezzi che ci ha dato la Mercedes. Abbiamo incontrato lungo la tappa, abbiamo incontrato anche la cooperativa dei tassisti di Venezia Mestre, che sono una cooperativa molto sensibile alla componente innovativa, e ci hanno accolto in maniera entusiastica. Abbiamo anzi ragionato con loro quale potrebbe essere il modo migliore per collaborare. Bellissimo, ottimo. Complimenti e buon lavoro in quel di Ragusa. Quanto tempo ci vorrà per capire se questa nuova app Movement abbia conquistato il mercato, almeno quello di Ragusa? Allora, Ragusa è una piazza difficile per certi versi, ma anche entusiasmante. È una sfida che abbiamo accolto con piacere. E già dalle prime avvisaglie, considerate che in solo 4 settimane di presentazione del progetto abbiamo avuto oltre 600 iscritti. E quindi c'è già grande entusiasmo da parte della popolazione attraverso c'è anche fermento a Ragusa, insomma, molto. Tra qualche mese ci possiamo risentire, qualche settimana, per vedere se è andata bene. Dal pilota avremo tantissimi parametri, quelli che si dicono in gergo tecnico KPI, ovvero indicatori che ci consentiranno di capire dove possiamo migliorare, dove abbiamo sbagliato, dove è possibile incidere per ottimizzare Benissimo. Il nostro modello. E allora ci risentiamo, grazie mille. Ciao Riccardo D'Angelo. Buona domenica. Di Edison Web, e questa era la sperimentazione del taxi collettivo, l'app si chiama Movement, a Ragusa, che partirà proprio in questi giorni. 800 24 00 24, prima di andare sul traffico fatemi sentire Enrico da Milano. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, allora, il personaggio potrebbe essere, secondo me, Philip Sayer, che è morto questa settimana, lo speaker della metropolitana di Londra, ed era famoso per la sua frase Mind the Gap. Mind the Gap, Mind the Gap, certo. La frase che in tutte le metropolitane londinesi segnala di fare attenzione allo spazio di vuoto fra la banchina e il treno. La notizia ci ha molto rattristato. Non è lui il nostro personaggio, ma siamo molto felici che tu abbia ricordato la voce della metropolitana di Londra, Mind the Gap. È un personaggio molto amato, meno attinente forse il secondo indizio, che ha a che fare con un regalo. Però Massimiliano dalla provincia di Pordenone. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo rispondere anch'io per il personaggio, penso sia Kobe Bryant. Straordinario Kobe Bryant, ci vuoi dire perché secondo te sarebbe il nostro personaggio, giusto? Perché è un personaggio molto amato e il regalo, lui ha avuto il regalo da Michael Jordan delle scarpe, delle Nike che poi hanno messo all'asta. Sì, certo, nel momento in cui ha dato l'addio al basket. Esatto. Questa è una bellissima notizia, cioè bellissima, insomma, per gli amanti del basket è un peccato, ma lui ha deciso di fermarsi ed era una notizia straordinaria, ma non era lui il nostro personaggio, in effetti, Massimiliano. Grazie. Grazie. Però grazie per averci chiamato. È un altro personaggio molto amato che ha a che fare con un regalo. Il regalo in realtà di Kobe Bryant è che nell'ultima partita ha fatto 60 punti. Devo nella dire partita che in cui si è ritirato. In una delle telefonate da un altro mezzo indizio di prima ci siamo un po' avvicinati. Giusto, giusto. Anzi, molto avvicinati. Direi quasi per stretta di mano avvicinati. Oh, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lavoro straordinario, certosino, di sblocco delle opere pubbliche incagliate. Noi siamo l'unico paese al mondo che in questo momento sta facendo tre opere strepitose di collegamento con l'Europa. Noi abbiamo tre tunnel che sono il, ovviamente a livelli diversi, il Gottardo che si inaugura il 1 giugno con la Svizzera, il Brennero che abbiamo sbloccato noi e che ci collega con l'Austria. Vabbè, insomma, è un po' stanco Renzi, dai, è un lapsus. A un certo punto lo dice anche a livelli diversi, perché forse una vocina dentro di lui gli stava dicendo: ma cosa stai dicendo? Che il tunnel del Gottardo è un'opera che stiamo realizzando noi? Perché in Svizzera c'è questo piccolo particolare. Gli è scappata di mano. Naturalmente è stato ipercriticato. Poi lui, tu ricordavi prima che si è un po' difeso, ma insomma, sì, ormai sì, ha detto, vabbè, però comunque sì, sì, è andata. Va bene, allora, prima di chiudere, ancora ascoltatori, poi abbiamo da raccontare ancora una piccola storia. Francesca dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno a voi, buona buongiorno. Giornata. Benvenuta. Grazie. Io volevo intervenire sul personaggio. Sì, prego. Dunque, credo che sia Evo Morales che ha regalato questi libri sulla coca al Papa Francesco, mm-hmm. Dicendogli, anzi consigliandogli di prenderne un po', perché fa bene, che lui la prende regolarmente e fa bene. E, niente, questa cosa... Abbiamo atteso l'applauso, vero? Il personaggio era lui. Potevamo noi lasciarci sfuggire questa occasione di Evo Morales che si è presentato al Papa con i libri sulla coca? Per precisione dobbiamo giustamente dire che a quanto pare Evo Morales ha detto, parlava della coca, nel senso le foglie di coca che vengono, che sono un'antica tradizione. Un'antica tradizione. Poi non sappiamo se parlasse di più coca generale. In generale, però per precisione. Perché sennò sembra veramente che uno va con la bustina dal Papa, che non è una bella immagine. Precisiamo, anche molto amato Evo Morales, perché è stato eletto 3 volte al terzo mandato come presidente, quindi in quel senso molto amato. Il regalo era il libro, i tre libri. Che ci chiediamo dove andranno, se nella biblioteca normale, in quella dell'Indice, chi lo sa. Chissà cosa, come maneggeranno all'interno del Vaticano i libri sulla coca che Morales ha regalato al Papa. Grazie Francesca, complimenti, vinci i biglietti e il catalogo della mostra di Miro al MUDEC di Milano. Carlo, l'ultima partita a Quidditch che hai fatto quando è stato? Eravamo l'altro giorno. Sì, mi sembra. Se... settimana scorsa. Chi ha vinto? Vinto hai vinto tu, no? Forse hai vinto tu. Sai che hai vinto 68 a 115? Ok, ti dico di sì. Ti dico stiamo di parlando sì. di una cosa di cui non sappiamo assolutamente niente e in realtà lo chiediamo a Andrea Miglietta, che è l'organizzatore dei campionati europei, la quarta edizione di Quidditch. Buongiorno. Sì, buongiorno. Andrea Miglietta, dell'associazione italiana Quidditch, di cosa stiamo parlando? Ci devi spiegare tutto. Perché noi abbiamo introdotto il tutto con la nostra musica dei campioni bestiali, perché insomma questo è uno sport abbastanza originale. Dico è quello solo, di Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter, la scopa tra le gambe. Sì, sì, praticamente deriva appunto dalla saga di Harry Potter e si sviluppa come un vero e proprio sport. Diciamo che è un misto tra rugby, dodgeball, pallamano, però ovviamente sono presenti anche delle, appunto, delle caratteristiche tipiche poi del Quidditch, essendo uno sport che si gioca prevalentemente con una mano, perché noi abbiamo una scopa tra le gambe che dobbiamo essenzialmente mantenere. Quindi una mano serve per tenere la scopa, l'altra per giocare. E i rumori che sentiamo intorno a te sono dei campioni del Quidditch che si stanno scontrando, è vero? Perché... Sì. Sì, sono qui a Gallipoli, ci sono sei campi, si stanno scontrando in questo momento 12 squadre. Si stanno massacrando, direi, dalle urla che sentiamo. Sì, decisamente, sono anche un po' lontano perché altrimenti non vi sentirei. Sono 700 gli atleti presenti qui a a Gallipoli. Sì. E quindi 40 squadre da tutta Europa, insomma un bel clima, tra l'altro ci ha accompagnato anche un bel sole, quindi... siamo anche contenti di questo. Adesso proviamo anche a spiegare, l'impresa assurda di spiegare come si gioca, le regole del Quidditch, naturalmente in pillole perché abbiamo due minuti. Qual è la squadra più forte, la più temibile? Chi è che va a vincere? Attualmente i Titan di Parigi sono i campioni in carica e si stanno dimostrando all'altezza del proprio titolo. I parigini, quindi, i parigini, sì, quindi. E tra gli italiani chi sono i più forti? Guarda, secondo me tra la squadra di Torino e la squadra di Roma se la giocano molto bene perché stanno davvero facendo bene. Sono cinque le italiane presenti qui a Gallipoli. E i Milano Meneghins mi sembra che non sono nelle prime. No, purtroppo no, hanno avuto un girone veramente molto difficile, veramente, sono veramente molto stanchi, li ho sentiti da poco sono stati un po' sfortunati dal punto di vista di sorteggi dei gironi. Chiedo scusa, un po' di campanilismo, essendo io di Milano. Harry Potter l'abbiamo visto più o meno tutti. Ricordiamo che c'era da inseguire un boccino. Sì, in questo caso il boccino è in forma umana, perché praticamente è un atleta, un corridore, che non fa parte di nessuna delle due squadre. E ha scappa una... e deve essere inseguito e acchiappato. Ha una sorta di coda dietro, che è praticamente un calzino con una palla di tennis dietro. E essenzialmente lui può flaccare, può buttare a terra, può fare un po' di tutto, può togliere la scopa. Grazie, dobbiamo fermarci. Grazie Andrea Miglietta, purtroppo è esaurito il tempo a nostra disposizione. È come il fischio finale. Questo era il Quidditch e va bene a Lecce, no, anzi a Gallipoli. Ci fermiamo, grazie ad Andrea Piana, Claudio Schiattone, Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè in regia quest'oggi. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 7:30 come sempre. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, ciao e buona domenica e a chi ci ascolta in podcast. Ciao.